Queste giornate di borsa non ci fanno dormire tanto tranquilli. Io ho rivisto davvero la tensione che mi ero abituata a vedere per molte giornate nell'autunno del 2008. Paolo Federici, in questo crescendo di notizie all'interno delle quali non facciamo un po' di difficoltà a trovarne qualcuna buona. Qui ci sono situazioni relativamente simili a quelle del 2008 a livello di singoli titoli, non è lo stesso il contesto. È evidente che al di là delle notizie, avete visto quello che è successo in Germania e qual è il costo politico di una situazione del genere. La Merkel è andata col Partito Cristiano Democratici a livello più basso dall'unificazione tedesca, ci sono dati di occupazione non favorevoli, eccetera. C'è una grossa novità rispetto a quello che era successo nel 2008, e che questa non è più una crisi privata. Nel momento in cui la difficoltà è stata trasferita sul settore pubblico, entra in gioco inevitabilmente il ruolo dei governi e delle autorità centrali, che hanno un'agenda che in questo momento deve essere davvero diversa dal solito, perché evidentemente ogni governo mira in qualche modo a essere rieletto. Questi sono periodi molto bui, sono periodi in cui si devono attuare delle manovre impopolari, si deve avere una scelta chiara di posizione, e certamente i mercati premiano da un lato quando questo avviene e puniscono invece quando questo non avviene. Quindi paradossalmente la ricerca di consenso elettorale ha la meglio sulla... come dire, sulla salvaguardia del paese, di una nazione. Ma questo è un rischio che corrono tutti i paesi con tutti i governi. Se guardiamo anche negli Stati Uniti, quanto è stata difficile la discussione per quello che ha riguardato l'innalzamento del debito, si vede che evidentemente nessuno si voleva più di tanto prendere la paternità di questo Stato. Pochi lo raccontano, ma negli Stati Uniti ci sono singoli stati che sono di fatto in default, proprio perché non si è raggiunto tra forze politiche un accordo. Quindi, in buona sostanza, cos'è che tranquillamente i mercati? Il fatto che a livello politico vengano definite delle soluzioni che vengano ritenute durature, e che per l'Europa in particolare, quindi ai noi ne siamo coinvolti, ci sarà la necessità di probabilmente rivedere alcuni meccanismi. Cioè, a nostro avviso, un'unione monetaria non può sopravvivere per come la conosciamo oggi se non dà anche spazio a una qualche forma di crescente unione, almeno fiscale se non politica. E questo è il grosso nodo, perché chiaramente si tratta di spossessarsi di parte della sovranità popolare.